Siamo al telefono con Salvatore del Parto delle Nuvole Pesanti. Ciao intanto e grazie mille della disponibilità. Ciao a tutti i grandi ascoltatori di Radio Fugito. Allora, 35 anni di Parto delle Nuvole Pesanti. Ci sarà una festa il 10 ottobre a Teatri di Vita qui a Bologna. E come ve li sentite questi 35 anni? Come sono? Da giovanissimi proprio. Siamo con uno spirito effervescente, quindi passa il tempo ma non passa questa voglia di essere vitali, di essere sempre, di mettersi in gioco e di nutrirsi continuamente di quello che la vita ci presenta davanti, insomma affrontandolo a viso aperto e con le spalle larghe. Ecco, voi avete fatto, questa è la seconda data, la prima è stata in Calabria, a Crotone se non sbaglio. Come è andata e qual è il vostro legame, il vostro sentimento magari più che legame, perché il legame è un po' ovvio, con la Calabria e con Bologna? Ma guarda, diciamo come dice il nostro amico Carmine Abbati, scrittore, ha vinto il premio Campiello in questo suo libro Vivere per addizione, anche noi ci troviamo in questa condizione di vivere per addizione e quindi siamo legati non soltanto a livello affettivo ma anche proprio a livello esistenziale, diciamo, sia con la Calabria che con Bologna, perché Bologna è diventata la nostra terra di vita di fatto, ecco. E quindi quando torniamo in Calabria spesso va bene, in questo caso è andato benissimo. Abbiamo suonato in particolare in provincia di Crotone, Strongoli, che è il mio paese d'origine, e quindi c'è stato, non suonavamo da tanto tempo lì, abbiamo voluto farlo lì perché questo legame c'è con il mio paese, poi anche l'amministrazione comunale ha voluto assolutamente che facessimo questa tappa simbolica di inizio del viaggio, no? Proprio lì. E c'è stata una risposta del pubblico davvero commovente, perché in 10.000 hanno partecipato a questa piazza grande sul lungomare di Strongoli a questo concerto, che è un concerto, un evento speciale, è un concerto speciale perché non è il solito concerto, ovviamente parlando di un compleanno di 35 anni, ed è un appunto un concerto che intanto c'è un'orchestrina delle Onde Calabre che si compone di 15 elementi, e quindi sul palco per la prima volta noi andiamo a riarrangiare e a rifare i brani dall'inizio, dalla storia del parto fino ai nostri giorni, con 13 album da raccontare, anche colonne sonore di film, di teatro, arrangiamenti che sono stati fatti dal nostro collaboratore storico Antonio Rimedio, che è maestro d'orchestra, e quindi che poi va sul palco a fare il direttore d'orchestra, questo è stato magnifico. E poi c'è anche da dire che c'è questa bella storia che accompagna il concerto, e sto parlando della mostra fotografica, una storia di 35 anni che viene raccontata attraverso una selezione di fotografie che punteggiano, diciamo, i passaggi più importanti, i progetti più interessanti che abbiamo fatto nel corso di questi 35 anni, e accompagna questa mostra proprio, come dire, fanzi entrare nell'atmosfera del concerto accompagnando il pubblico alla musica. Ecco, questo è un pochino in sintesi l'evento speciale che stiamo realizzando, che abbiamo realizzato a Strongoli, provincia di Crotone in Calabria, e che realizzeremo venerdì 10 ottobre a Bologna, Teatri di Vita. Ovviamente anche la scaletta ne risentirà di questo spazio, che è uno spazio chiuso teatrale bellissimo, Teatri di Vita, ricordiamo che è una realtà nazionale appoggiata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia-Romagna, che dal Comune di Bologna, e che fa un lavoro importante che condividiamo come sensibilità rispetto ai temi sociali, rispetto ai temi culturali, e che diciamo, ha voluto assolutamente inserirci nella programmazione proprio per questi motivi. Da sempre anche loro ci hanno detto simpaticamente che siamo stati per loro un punto di riferimento nel corso dei decenni a Bologna, quindi questa cosa ci ha dato la possibilità di costruire questo evento. Stavo dicendo la scaletta ne risente, perché ovviamente si potrà, come dire, ballare non proprio liberamente, scatenarsi in una sala di teatro, ma comunque ci sarà la possibilità, con una scaletta organizzata in modo tale che alla fine si possa festeggiare comunque anche in teatro. teatri di vita, una scelta un po' inusuale, anche perché teatri di vita non è proprio luogo da concerti, è luogo di spettacoli, raramente abbiamo visto della musica. E voi come mai avete scelto, cioè, questo, il legame con questo spazio, come è nato? Teatri di vita, diciamo, che intanto condivide con noi questa sensibilità rispetto ai temi sociali, rispetto ai temi culturali. Loro hanno fatto tante iniziative in questo senso e anche noi, diciamo, nel corso degli anni abbiamo fatto tanti progetti, ricordiamone alcuni, di musica di aiutare i beni confiscati alla mafia, in collaborazione con Libera, alla valigia di identità, in cui abbiamo parlato di immigrazione del viaggio, considerato non soltanto come sofferenza e dolore, sradicamento, ma anche come possibilità e occasione di conoscenza e di arricchimento delle persone, non tanto per ricordarne due di questi progetti. Quindi insieme abbiamo detto perché no, loro sono stati per noi uno sguardo, diciamo, su Bologna che abbiamo ritenuto molto interessante, no? Anche se sotto il profilo teatrale. Loro da sempre hanno avuto sempre nei confronti del parto un riguardo, hanno considerato sempre il Parto delle Nuvole Pesanti come un punto di riferimento a Bologna e quindi da qui è nata questo piacere, se vogliamo, di fare questa tappa bolognese in questo spazio. La scelta è caduta sui teatri di vita perché sono in sintonia con noi. E parlavamo di temi sociali, politici, culturali. Ecco, voi nella vostra musica avete messo sempre dei temi politici, sociali, d'attualità. E com'è cambiato questo modo di portare avanti l'attivismo dai primi dischi dal 91, il primo disco, fino al giorno d'oggi? Come si è evoluta il vostro attivismo nella musica? Noi all'inizio avevamo, come dire, una sorta di istinto sociale e culturale e questo lo manifestavamo anche nell'ambito dei nostri live, dove portavamo canzoni che in qualche modo, seppur ancora in maniera poco matura, esprimevano all'interno riflessioni, considerazioni e denunce sociali. Poi piano piano, diciamo, si è andato evolvendo questo elemento fino a diventare un aspetto fondamentale del nostro progetto artistico e questo è successo con diciamo negli anni intorno al 2015 quando abbiamo deciso di fare un progetto proprio dedicato ad uno dei temi più importanti che da calabresi della 'ndrangheta, della mafia, e abbiamo fatto questo progetto Terre di Musica, Viaggio tra i beni confiscati alla mafia, con la collaborazione di Libera e dell'Arci, perché abbiamo voluto affrontare di petto questa cosa, cioè non prenderlo lateralmente il problema, perché comunque è un problema che ci tocca seriamente, ci ha riguardato da ragazzi quando eravamo in Calabria, con un vissuto proprio a contatto con personaggi poco edificanti o comunque con situazioni di soprusi, di abusi e di prepotenza dranghettistica e mafiosa, e quindi l'abbiamo voluto fare però dedicandogli questo progetto, e l'abbiamo fatto attraverso un viaggio che è partito da Corleone fino ad arrivare a Milano, passando ovviamente per la Calabria, ma ripercorrendo tutta l'Italia, e l'abbiamo voluto fare soprattutto occupandoci di un aspetto positivo dell'antimafia, quello della gestione dei beni confiscati alla mafia, che fondamentalmente restituiscono alla società quello che è stato maltolto da questa organizzazione criminale. Abbiamo voluto raccontare l'esperienza di questi ragazzi che gestiscono questi beni, di tante donne e soprattutto di quelle persone che vivono un disagio sociale, che vengono chiamati pazzi, diciamo, no? E che proprio in questi luoghi hanno ritrovato un senso di vita, un modo di stare al mondo con tranquillità come tutti. Quindi è una cosa bellissima, un'esperienza che abbiamo appunto voluto raccontare con un cofanetto poi, che racconta proprio questo viaggio, che contiene sia un libro che un film, che tra l'altro qui a Bologna abbiamo avuto pure il piacere di proiettare alla Cineteca. Insomma, un impegno che va avanti da molti anni. E secondo te c'è qualcuno nella musica che può aver preso un po' in mano il testimone portando avanti temi sociali, politici e di lotta alla mafia? Allora, intanto volevo raccontare questo aneddoto, che qualche anno fa un giornalista mi disse: ma voi portate avanti, vi occupate dei temi sociali, portate avanti queste battaglie, ma ancora credete che sia importante questa cosa, che sia necessario per la musica, o comunque che ci sia bisogno di spazio nella musica per raccontare queste cose? E io gli ho risposto: ma allora ipotizziamo che questo non abbia più senso, no? Praticamente cadrebbe tutto un mondo di musica, cioè quale sarebbe il senso della musica? L'intrattenimento? Se togliamo l'elemento della narrazione di qualcosa che abbia un senso, lasciamo perdere poi di quale senso possa avere, diventa intrattenimento, allora prendiamo tutto, cioè che so, da De Andrea, tutti quanti gli altri, e li buttiamo in un fosso, cioè quindi questa cosa, io ho detto al giornalista, io risponderei con un'altra domanda, quindi, ma ha senso una musica che non si ponga questi problemi, questi interrogativi? Semmai il problema è questo qui, tanto è vero che oggi viviamo, e rispondo alla tua domanda, viviamo una situazione di difficoltà, a dire poco, no? In cui c'è poco da essere testimoni di questa esigenza, perché vedo nell'ambito, diciamo, musicale una deriva verso l'intrattenimento, verso in corso al successo fino a se stesso, che diciamo cozza un pochino con questo bisogno di essere, di interessarsi della nostra vita, della nostra realtà e della nostra società. Tuttavia elementi, diciamo, di speranza non mancano, per esempio nell'ambito quello della battaglia, della lotta per la legalità e contro la mafia, ci sono diverse iniziative che, devo dire, grazie a Libera si sono animate, si sono costruite in qualche modo in varie parti d'Italia, diverse situazioni in cui addirittura ci sono rassegne in cui si, diciamo, parla di questo tema ed è diventato il tema fondamentale, si racconta, si scrivono canzoni proprio a tema, e questa cosa diciamo lascia sperare che in qualche modo per il futuro i ragazzi, le nuove generazioni, si riprendano a cuore queste questioni. Salvatore, io ti ringrazio tantissimo, sono temi molto importanti e insomma è bello e importante riuscire a parlarne. Ti ringrazio tanto, ricordiamo l'appuntamento con il concerto evento dei 35 anni del Parto delle Nuvole Pesanti, 10 ottobre a Teatri di Vita. A questo punto ti chiedo se hai un saluto e magari una canzone della vostra lunghissima carriera per salutarci e darci appuntamento al concerto. Una canzone che ci ha legati per sempre a Bologna, sicuramente La Partenza, nel 1990-91, quando un casolare, diciamo, della campagna bolognese, giovani universitari, abbiamo scritto questa canzone Raggia in dialetto calabrese, ma eravamo qui, e da qui è partita questa raggia, che poi significa rabbia, ma in un senso molto profondo, di un sentimento che va oltre l'arrabbiatura quotidiana, diciamo, e che quindi è diventato il nostro manifesto artistico. La raggia è come dire, rappresenta il parto dall'inizio fino alla fine. Poi volevo ricordare, se me lo consenti, che in questo evento che racconta fino ai nostri giorni la storia del parto, ci saranno ospiti, tra cui il chitarrista Paolo Capodacqua, e questa è un'anticipazione, storico chitarrista del grande Claudio Lolli. Parliamo di Bologna, parliamo di Claudio Lolli, che salutiamo ancorché lui ormai da anni regna sovrano sulle nostre teste, perché ci ha lasciato purtroppo un po' di anni fa, ma che con lui abbiamo fatto un'esperienza artistica, musicale e umana assolutamente che conserviamo nel cuore proprio. perché abbiamo riarrangiato con lui il suo grande ed entusiasmante disco di un'intera, che è stato un manifesto politico di un'intera generazione. Sto parlando di Ho visto anche degli zingari felici. E lui disse: tanto bello questo disco che è come essersi innamorati due volte della moglie. E quindi altri ospiti ci saranno, ma non li svegliamo tutti in anticipo. Venite al concerto a vivere proprio questo evento speciale, i Teatri di Vita, e così scoprirete anche quali sono non solo tutti i musicisti dell'Orchestrina Calabra, ma anche tutti gli ospiti che si susseguiranno, che faranno parte sia del mondo musicale ma anche del mondo teatrale, per esempio, visto che abbiamo toccato anche e abbiamo fatto esperienza anche nel mondo teatrale con Rocco Stort, con Slam, eccetera. Perfetto, insomma, tantissima roba, tantissima carne al fuoco per questo evento. Io ti ringrazio davvero tanto per la disponibilità, è stato un enorme piacere avere la possibilità di fare questa chiacchierata. Appuntamento al 10 ottobre. Grazie mille, Salvatore. Grazie a voi tutti, ciao Radio Fujiko.